sta per finire lo spazio parapiglia di approfondimento quest'oggi sui cortei dell'8 marzo, ma non prima ovviamente di parlarvi del corteo di Milano. È in collegamento con noi la compagna, ciao. Ciao a tutte. E niente, noi abbiamo raccontato un po' i cortei di tutta Italia e volevamo sapere anche da voi com'era andata, visto che l'abbiamo presentato la mattina, però si svolgeva il pomeriggio di domenica. Quindi. Sì, sì, si è svolto ieri pomeriggio, di fatto è stato dalle 2 fino alle 11 di sera, nel senso, perché dopo il corteo c'era anche un momento di dibattito e di festa con la rappresentante curda che è arrivata da Parigi. Il corteo, allora, premetto, avevamo già spiegato, ne avevamo fatto, è stata una cosa indetta da compagne di varie situazioni che si erano state a Roma quando c'era stata l'incontro con le curde e abbiamo deciso di cercare di fare a Milano un'iniziativa ci siamo mosse in maniera anche molto volontaristica e invece ha avuto un buon risultato, nel senso che era non tanto a livello poi numerico, perché Milano è una città difficile, comunque saremmo stati un 200-250 persone, ma invece proprio a livello di qualità per il percorso che abbiamo scelto, che era molto bello perché era in un quartiere periferico di Milano a grossa densità di migrazione e dove siamo state anche molto attente a come alle parole d'ordine da dire, a come interloquire con le persone e abbiamo avuto dei riscontri estremamente positivi. Per esempio, apprezzatissimo è stato il fatto che noi avessimo sia manifesti che volantini stampati in 5 lingue, quindi riuscivamo ad avere un rapporto diretto, che facevamo tutti i discorsi contro il noi, voi, contro la non supremazia occidentale, quindi è stato, a differenza di quelle sfilate che di solito si fanno dell'8 marzo nel centro della città in mezzo alla in indifferenza oppure dove sembra che si festeggia la festa della donna tout court, qui invece c'erano dei contenuti estremamente positivi e abbiamo avuto delle reazioni positive da parte delle persone. Insomma, hai trovato un buon canale di comunicazione, quindi sì, devo dire l'avevamo anche molto studiata perché non era un territorio facile, un territorio, cioè, non volevamo assolutamente che sembrasse l'invasione delle italiane, sì, nel quartiere straniero, poi insomma con anche tutte le difficoltà che ci possono essere, insomma, e invece devo dire che la risposta è stata positiva. Mentre sfilavamo abbiamo appunto anche lanciato slogan e fatto parecchie fermate sempre parlando in più lingue. Un po' più difficoltoso parlare l'arabo, però avevamo dei volantini in questo senso poi durante tutto il corteo abbiamo attacchinato tutta quanta la via e poi abbiamo finito in un parco con appunto c'era presente anche una delegazione curda, abbiamo finito in un parco dove abbiamo concluso lì con un comizio, in un parco che invece è molto frequentato perché c'è un naviglio periferico che è una pista ciclabile e quindi dove ieri era una bellissima giornata per fortuna, quindi siamo arrivati in mezzo alla gente e poi ci siamo spostate in Villa Pallavicini dove invece c'era un momento di dibattito e poi di buffet, di festa insieme alle curde e lì la partecipazione invece è stata altissima, proprio è venuta tantissima gente. Devo dire che con rammarico quello che ho pensato, per esempio c'era la sera era proprio piena di donne, molte donne che invece al corteo non sono venute, quindi più che avevano voglia di riflettere piuttosto che di prendere l'insegnamento delle donne curde che teoria e pratica devono sempre andare insieme, insomma. Vabbè, un inizio. Comunque sì, no, è stato è stato un momento molto positivo. C'era questa, la compagna Nursen, che era la stessa, una che era, avevamo incontrato anche a Roma, che ha rifatto un po' tutta la, la storia di come si è creato il movimento delle donne curde e gli obiettivi che sta raggiungendo, molto brava, molto preparata, e ci sono state tantissime domande con risposte molto esaustive, e quindi alla fine noi siamo molto soddisfatte di come è andato il tutto. Come proseguimento, qui ci sarà il 29 a Bucinasco, le compagne curde festeggeranno il Nevroz e ci hanno invitato a partecipare, e andremo senz'altro. Bellissimo, quindi insomma lo rimandano, cioè, qui lo fanno una settimana più tardi perché tanti curdi cercheranno di andare in, in Kurdistan, per cui hanno deciso di festeggiarlo il 29. Sì, delle giornate importanti in tutta Italia che hanno risposto all'appello internazionalista delle compagne curde. È stato veramente emozionante, da Milano alla Sicilia, quelle sono state un po' le nostre parole d'ordine. Noi come voi insomma ne stiamo parlando da tanto, perché questa è una rivoluzione, è una vera rivoluzione, insomma, non aggiungo aggettivi, ecco, quindi per noi è una rivoluzione. Poi che vede proprio questo contenuto centrale di lotta al patriarcato, con gli obiettivi della separatezza, eccetera, insomma, che del partire da sé, insomma, che ci fa sentire estremamente vicini. Ma infatti eravamo tutte molto emozionate, devo dire. Sì, immagino, insomma, noi siamo molto contente quindi che questo corteo si è andato bene. Direi che possiamo riaggiornarci anche per altre iniziative, insomma, o anche per il 29. I nostri microfoni sono sempre a disposizione. Vi auguriamo buon proseguimento di lotta. Grazie. Non so se volevi aggiungere qualcos'altro. No, basta, grazie e saluto tutte. Va bene, ti ringraziamo noi. Ciao, buona giornata. Ciao.